Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Ve lo ricordate l'ACE, l'attestato di certificazione energetica, quello che dice quanto un'abitazione consuma per scaldarsi e che avrebbe dovuto fare da ago della bilancia nel mercato delle costruzioni. Ve la ricordate? Insomma, quella certificazione obbligatoria in caso di vendita di un immobile oppure per dimostrare una ristrutturazione energeticamente efficiente. Ebbene, avevamo lanciato l'allarme già nel 2009, proprio qui da Radio 24. Occhio, avevamo detto che le certificazioni vengono svendute senza alcuna verifica sull'edificio e quindi in molti casi senza alcun rapporto con i consumi reali dell'edificio stesso. Addirittura c'era chi offriva certificazioni su internet a 40 euro. Ebbene, finalmente alcune regioni hanno cominciato a fare i controlli verificando la corrispondenza tra le certificazioni e le prestazioni effettive degli edifici. E come c'era da attendersi, i risultati non sono certo entusiasmanti. Risultato di una scelta scellerata, l'avevamo anche questo già detto, quella di concedere il titolo di certificatore energetico un po' a tutti. Troppi certificatori, troppo poco qualificati. Insomma, 20.000 nella sola Lombardia contro i 600 della Danimarca. E allora adesso che cosa succederà? Ne parliamo con Gaetano Fasano, responsabile dell'unità tecnica di efficienza energetica dell'Enea. Buonasera Fasano. Buonasera e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora Fasano, partiamo da questi controlli che si stanno cominciando a fare. Chi sta controllando intanto e che cosa sta venendo fuori? I controlli li stanno sviluppando attualmente soltanto alcune regioni del nostro territorio, purtroppo, ahimè, senza far nomi perché non vorrei poi toccare la suscettibilità di nessuno. Comunque i risultati sono abbastanza preoccupanti perché molti certificati sono fatti con leggerezza, sono anche poco rispondenti allo stato di fatto dell'edificio preso in considerazione e, cosa ancora un po' più grave, sono fatti con una professionalità molto bassa. Molto bassa. Beh, pochi giorni fa parlavo con i responsabili di Emilia Romagna, Regione Lombardia e Piemonte, che sono tre regioni che stanno facendo questi controlli, e sembra che un terzo e anche più di questi certificati non torni. Non so se, ecco, insomma, siamo su questi numeri qui, quindi qualcosa che rischia di invalidare anche tutti gli altri, perché quando si ha una probabilità su tre o più che il certificato che si riceve non valga nulla, si mette in discussione tutto. Certo, su questa strada rischiamo che il cittadino percepisca la certificazione come una specie di tassa di cui non vede né, diciamo, la risposta positiva per sé, né tantomeno la validità, la valenza di percorrere questo tipo di procedura. Certo, ognuno cercherà solo di spendere il meno possibile per fare un foglio di carta che è semplicemente una marca da bollo ormai. E adesso quindi che cosa succederà? Insomma, si sta facendo qualcosa per uscire da questa situazione? No, diciamo che il Ministero dello Sviluppo Economico si sta adoperando proprio per superare questa impasse, per cui ci saranno a breve l'emanazione di un decreto che governerà e disciplinerà tutta la parte afferente al raffrescamento degli edifici e quindi climatizzazione estiva, il che non è poco, e poi è in preparazione un secondo decreto di recepimento della direttiva europea 31/2010 in cui saranno rivisitate un po' gran parte delle procedure attualmente in vigore per quanto riguarda questo attestato di certificazione che si chiamerà attestato di prestazione energetica degli edifici, con la previsione anche di controlli e sanzioni ben più puntuali e specifiche rispetto a quanto non sia stato fino adesso. Quindi lei mi sta dicendo che arriverà qualcosa che sostituirà l'attuale certificazione energetica, perché intanto nei contenuti, perché l'attuale certificazione energetica, pochi lo sanno, ma appunto si limita a valutare i consumi invernali, quindi quelli dovuti al riscaldamento, ma non calcola i consumi di condizionamento, che invece stanno diventando rilevantissimi. Quindi ci sarà un passaggio ad un metodo di calcolo più preciso. Sicuramente più completo e sicuramente ci sarà un'interfaccia verso l'utente più comprensibile rispetto a quanto non sia stato fino adesso, perché il nuovo certificato conterrà delle informazioni che per l'utente saranno molto più leggibili. Leggibili. E questo chiare. Certificato si chiama APE, attestato di prestazione energetica, che andrà a sostituire l'ACE. Ecco, sì. Senta, ma cosa ci garantisce che non torniamo a ripetere gli stessi errori? Beh, ci sono due aspetti che stanno cambiando il panorama. Il primo deriva proprio dalle direttive europee, di cui l'ultima, la 370, entrerà in vigore, comunque dovrà essere recepita entro un anno e mezzo ormai dagli Stati membri, in cui si punterà molto sulla qualificazione o certificazione delle maestranze che operano nell'ambito dell'edilizia in generale e in particolare sulla certificazione energetica. Ecco, ma quindi chi era abilitato a, diciamo, a rilasciare la ACE sarà automaticamente abilitato anche a rilasciare l'APE, perché in quel caso non si capisce come se ne possa uscire bene, insomma. Certamente no, perché tutti i corsi di formazione fatti precedentemente puntavano soprattutto sul riscaldamento e acqua calda e produzione di acqua calda sanitaria. Il nuovo dovrà prevedere riscaldamento, acqua calda sanitaria, raffrescamento, ventilazione e illuminazione per gli edifici del terziario. Quindi significa che questi soggetti dovranno essere comunque maggiormente indirizzati verso l'utilizzo non soltanto di procedure, ma anche di standard e di metodologie diverse da quelle che sono state applicate fino adesso. Poi lei dice ci sono più controlli, comunque sono più strutturali al meccanismo. Ormai è acclarato che se non si controlla non se ne esce fuori. Vabbè, quindi così come poco, ha fatto la Lombardia, si stanno attrezzando anche altre regioni, i controlli vanno fatti e vanno sanzionati, cosa molto importante. Quando questo attestato di prestazione energetica dovrebbe sostituire l'attuale attestato di certificazione energetica? Ma ragionevolmente marzo-aprile del 2013. Grazie Gaetano Fasano. Prego, arrivederci. Non facciamo in tempo a spiegare il come e il perché, ma presto su tutto il territorio italiano, perché già è così in alcune regioni, non sarà più possibile nemmeno autocertificare la propria abitazione in classe G, cioè la classe con le performance peggiori, e sarà invece obbligatorio rivolgersi a un professionista perché possa quantificare i consumi effettivi dell'abitazione. Ci fermiamo qui. Appuntamento a domani.